Tempo di sport con Carlo Genta. I think that I am very happy for sure. Was an important match. I think the very difficult match because the first half the managers they play very well. They put a strong start of the game and we found difficult to play the first half. But second half will be better. Will be better because we put more strength on the pitch. We played better. And I think that meritare, we have deserved to win. Allora, la nostra redazione, Filippo Aureggi in regia, quello che avete sentito era naturalmente Carlo Ancelotti. Se volete vi traduco, sono molto contento, è una partita importante, molto difficile. Nel primo tempo il Manchester United ha giocato molto bene, ha avuto un inizio di partita molto brillante, abbiamo trovato un po' di difficoltà nel primo tempo, credo che abbiamo meritato, e l'ha detto in italiano, l'avete sentito, di vincere. Ancelotti e Mourinho, il bianco e il nero, un titolo per Ancelotti, zero titoli, l'avrete sentito già 100 volte nell'ultime ore per José Mourinho. Il diavolo all'acqua santa, mettetela come volete, valgono tutti i luoghi comuni del mondo, sono due personaggi esattamente agli antipodi, Ancelotti e Mourinho. Spesso mi chiedono a questi microfoni molti ascoltatori, a proposito vi invito, 800 24 00 24, siamo qui per tutta l'estate a farvi compagnia, messaggi 349 238 6666. Spesso gli ascoltatori mi chiedono di dichiarare il mio tifo calcistico, ad esempio. Non ne ho uno preciso, faccio outing, dichiaro che sono e sarò sempre tifosissimo, anzi ultra, di Carlo Ancelotti. Ieri mi sono scoperto a saltare sul divano quando il Chelsea ha vinto questa, non è una coppa, è un piatto ma vale lo stesso ed è molto importante in Inghilterra. Carlo Ancelotti, come ha seminato, adesso raccoglie, credo, un tifo trasversale per tutta l'Italia. Smentitemi se volete, 800 24 00 24. In Inghilterra ci vado subito da Lorenzo Amuso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Lorenzo, cosa scrivono, gonfiamo un po' il petto, cosa scrivono i giornali inglesi oggi sulla vittoria di Carletto e del suo Chelsea? Beh, insomma, sono mancati i complimenti della stampa britannica ad Ancelotti e al Chelsea, nonostante una partenza, mi riferisco ovviamente alla prima mezz'ora della finale di Community Shield contro il Manchester United, una partenza non proprio entusiasmante durante la quale il Chelsea ha sofferto, però insomma poi nel corso della partita, come Ancelotti stesso ha detto in conferenza stampa, il Chelsea è cresciuto, è migliorato e alla fine direi sì che si può dire che ha meritato la vittoria, quindi la stampa celebra la prima vittoria di Ancelotti anche con una certa enfasi, nel senso che per esempio il Sun, il tabloid più venduto in Gran Bretagna, non manca di ricordare come Ancelotti abbia fatto meglio di Hiddink e meglio soprattutto di José Mourinho, dal momento che alla prima partita ufficiale alla guida del Chelsea ha vinto il suo primo trofeo. Un trofeo che, come dicevi tu, equivalente della Supercoppa italiana, però in Gran Bretagna in Inghilterra in questo caso ha un valore più importante, una lunga tradizione, è una competizione che dura dal 1908, quindi anche considerato il contesto in cui si è giocata a Wembley, 85.000 persone, direi che è una vittoria da non sottovalutare. No, non è da sottovalutare, anche perché giustamente oggi mi pare scrivano in Inghilterra che fanno un ragionamento, Chelsea favorito anche perché è quella che ha cambiato di meno o che ha perso meno giocatori, se vogliamo, in relazione alla situazione del Manchester United. Certo, il Chelsea, pur senza acquisti, ha mantenuto comunque una struttura di una squadra che è ancora nel fiore. Sì, sicuramente, nel senso che non solo rispetto al Manchester United, ma anche rispetto al Liverpool che ha venduto Alonso e rispetto all'Arsenal che ha perso Adebayor e Kolo Touré, il Chelsea non ha venduto nessuno, non ha venduto neanche quel Riccardo Carvalho che sembrava impreticato di passare all'Inter, che invece è ancora a Londra, allo Stamford Bridge, e che ieri, oltre a segnare il gol del momentaneo pareggio, è anche stato eletto il migliore in campo. Quindi Chelsea che ha ridotto al minimo il mercato, ha acquistato soltanto Zirkov, ma non ha perso nessuno dei suoi giocatori, e che adesso i bookmaker, come dici giustamente tu, indica come favorito per la vittoria in Premiership. Ma tu pensi che arriverà qualcuno al Chelsea? Ma nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Community Shield Ancelotti è stato piuttosto chiaro e deciso nel dire che il mercato del Chelsea è chiuso sia in uscita che in entrata, quindi non partirà più nessuno, bisognerà vedere a questo punto la posizione di Shevchenko, che comunque è una sorta di separato in casa, anche ieri non è stato convocato per la partita, però insomma questa sarebbe un'operazione a questo punto di secondo piano, e Ancelotti ha assicurato che non arriverà neanche nessuno. Questa affermazione sarà comunque da verificare nelle prossime settimane, perché anche ieri il rombo di centrocampo, il famoso rombo che è la novità dell'estate 2009 del Chelsea, non ha convinto al 100%, sì. Sugli esterni Malouda ha avuto qualche problema, e come playmaker basso Obi Michele ha lasciato più dubbi che certezze, tanto che poi è stato sostituito, al suo posto è stato spostato Essien. Insomma, al Chelsea forse un giocatore di quel tipo, alla Pirlo intendiamoci, manca ancora per le idee di Ancelotti. A proposito, oggi Roberto Beccantini scrive sulla stampa, dalla prima pagina, Carlo Re d'Inghilterra: è ancora presto per spiegare il Chelsea di Ancelotti, ci provo, più rombo, meno 4-3-3 e di sicuro gli appetiti robusti del capotavola. 8 anni di Milan e di Berlusconi soprattutto hanno vaccinato e corazzato Ancelotti, non c'è tensione o logorio che riesca a scalfirne le gote rubizze, quel lessico sempre da penultima cena. Avrebbe voluto affidare le chiavi del Chelsea a Pirlo, sarà per un'altra volta. Il calcio di Carlo è equilibrio fra buon senso e buon gusto. Gli inglesi lo hanno adottato subito proprio per questo, anche se poi saranno i risultati a fissare la durata del matrimonio e l'entità dell'affetto. L'affetto degli inglesi esiste nei confronti di Ancelotti, per la strada che si dice negli ambienti del Chelsea, negli ambienti dei tifosi blu. Sì, c'è sicuramente ammirazione per la carriera che ha avuto Ancelotti al Milan, gli 8 anni, a San Siro, le 2 Champions League. C'è curiosità per un personaggio che comunque sta a suo modo rompendo certi schemi consolidati. Se Mourinho si è rappresentato con una certa dose di arroganza e di presunzione, Ancelotti sta scegliendo il low profile e tanta ironia che ovviamente dalle parti di Londra è molto apprezzata, e quindi l'accoglienza è stata sicuramente molto positiva, c'è buona disposizione nei confronti di Ancelotti. Ovviamente però, come giustamente ricordavi tu, vale per Ancelotti, vale per Zola e vale soprattutto per Fabio Capello. Sono sempre i risultati a decidere poi il futuro, il destino di questi allenatori. Per adesso ovviamente, sia per quanto riguarda Zola che Capello, e da ieri anche Ancelotti, comunque sono risultati che sorridono ai nostri allenatori. Senti, invece Ferguson, che assimilerei di più a Mourinho, come te. A me, chiarisco subito, non è antipatico Mourinho per nulla, però è stridente il confronto tra questi due personaggi, Ancelotti e Mourinho, che si detestano piuttosto cordialmente, per la verità, e che soprattutto sono agli antipodi come modo di vivere in generale, di vivere la loro professione in particolare. Ferguson ieri invece ha perso la brocca contro Foy, l'arbitro che ha diretto questa partita del Community Shield, per un fallo di Ballack su Evra non sanzionato, da cui è nato poi il gol del 2-1 di Frankie Lampard. Peraltro, visti Lampard ed Evra discutere l'episodio in termini molto civili e non con le mani addosso, come succede nella maggior parte dei casi da noi. Ma quello che ti chiedo è questo: nei giorni scorsi abbiamo letto che in Inghilterra, insomma, con gli arbitri non si scherza più, non se ne parla più, soprattutto perché l'FA, la Football Association, ha detto che i tesserati non possono commentare le designazioni, non possono commentare l'operato dei direttori di gara, insomma silenzio a proposito dei fischietti. Evidentemente o Ferguson aveva dei soldi da spendere in multe, oppure la normativa non è ancora entrata in vigore. Com'è la storia? No, la normativa è già entrata in vigore, in realtà non si discosta molto dalle norme che erano in vigore già negli anni passati. È stato più che altro quello della Federcalcio un appello al buon senso, al rigore, e un richiamo a dire ai vari addetti ai lavori: guardate che quest'anno noi applicheremo queste norme con la massima severità. Per quanto riguarda Ferguson, mi sento di dire che non è la prima volta e certamente non sarà l'ultima che ha una reazione rabbiosa nei confronti di un arbitro. Al termine della partita lui prima dei calci di rigore si è precipitato in campo per fare valere le sue ragioni presso l'arbitro. È un personaggio del calcio inglese, forse è il personaggio del calcio inglese senza assoluti rivali, quindi da 23 anni è sulla panchina del Manchester United, e a lui sono concessi degli atteggiamenti, delle distrazioni sulla norma che ad altri non sarebbero concessi. È altresì vero che ieri l'arbitro poi credo abbia così commesso una certa leggerezza, perché comunque il fallo di l'ostruzione di Ballack su Evra era piuttosto evidente ed è capitato a 5 metri, forse meno ancora, dall'arbitro stesso che era in direzione. Quindi è stato un atteggiamento, è stata una scelta quella del direttore di gara piuttosto particolare, anche perché 5 minuti prima, per una situazione di gioco analoga, con Ballack in questo caso vittima e non carnefice, diciamo, lui si era così precipitato ad interrompere il gioco. Era stata questa discrepanza di valutazione a poi indurre i giocatori del Manchester e la panchina a protestare, perché sì, prima, quando Ballack appunto aveva subito un fallo, lui si era precipitato a interrompere il gioco. Pochi minuti dopo, una situazione analoga, invece ha deciso di lasciar correre. Diverso in metodo più, aggiungiamoci di giudizio, che poi il Chelsea ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. A quel punto il quadro, cioè la frittata era fatta. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Alla prossima con Lorenzo Amuso da Londra. Ecco che torniamo appunto per parlare con gli ascoltatori. Stavo dando un'occhiata anche alle notizie di giornata. Si è sparsa l'ennesima voce, l'ennesimo acquirente per la Roma, un russo, Prokhorov, ma Rosella Sensi ha detto no, la Roma rimane a noi, potrebbero esserci altre cessioni dopo quelle di Aquilani, ma De Rossi non si tocca. Dunque, sempre su una linea che non cambia, per me anche abbastanza misteriosamente, perché insomma questi problemi a Roma andranno prima o poi risolti, questi soldi, e sono tantissimi, andranno prima o poi pagati alle banche, quindi una soluzione a Roma dovranno per forza trovarla. C'è chi domanda via sms, c'entra uno con i ragionamenti che stiamo facendo, però un'informazione di servizio la do volentieri. Domani la nazionale di basket gioca in Finlandia, a che ora e quando in televisione, sì o no? Ore 18, schermi di Rai Sport, domani ne parliamo. Adesso invece parliamo immediatamente con Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buongiorno, sono Massimiliano da Bologna, tifoso juventino. Innanzitutto faccio i miei complimenti ad Ancelotti per il trofeo che ha vinto, sì, visto che comunque per vecchi ricordi sono ancora legato a quell'allenatore che secondo me un po' troppo frettolosamente abbiamo cambiato. Sì, ma no, ma sa cosa, al di là delle bandiere, io credo che insomma Ancelotti sia una delle persone più serie, sia una delle persone più trasparenti che il nostro calcio abbia prodotto. Insomma, io credo è una persona, al di là dell'allenatore, delle squadre che ha guidato, dove ha giocato, eccetera, eccetera, che piace grosso modo a tutti. Quindi credo che raccolga quest'anno nel Chelsea, che è diventato più che mai la 21esima squadra del nostro campionato, più di quanto non lo fosse quando Zola, Vialli, Di Matteo, Casiraghi in tempi diversi hanno aperto questo passaggio tra l'Inghilterra e Stamford Bridge. Credo che sarà più che mai la 21esima squadra del nostro torneo come affetti, in grado di raccogliere. Prego. E comunque avevo chiamato principalmente per una notizia che ho sentito oggi all'ora di pranzo, che sì, davvero mi ha nuovamente sconvolto per la dirigenza juventina che abbiamo, che è qualcosa di imbarazzante. Cioè, noi adesso abbiamo regalato Zanetti alla Fiorentina, dando le giustificazioni che non avrebbe trovato spazio. Voglio ricordare che il centrocampo a tre della Juventus è formato da un giocatore che è fermo da marzo e non si sa bene quando torna, da un Camoranesi che ha giocato 20 giorni in un anno e da un Melo, ottimo centrocampista, ma che di squalifiche durante l'anno ne ha tante. Il primo sostituto di questi tre giocatori è proprio Zanetti, e oltre a Marchisio, che infatti sta giocando al posto di Sissoko. Sì. Ultima cosa, Zanetti, ho sentito oggi per TV, perché il prossimo anno sarebbe in scadenza di contratto, l'abbiamo poi venduta a 2 milioni di euro, non è che l'abbiamo venduta a 20 milioni di euro. Questa è la dirigenza che quest'anno ha comprato Melo a 25 milioni di euro e l'anno scorso è stata lì a tirare, anche se i soldi hanno un valore enorme comunque, per 20 milioni per Xabi Alonso e non l'hanno preso. Quest'anno ha 25 milioni. Ma io credo che al di là dei milioni che ballano, lei sia un po' troppo critico nei confronti della dirigenza juventina. Insomma, non dimentichiamo, lei ha ragione quando dice che Felipe Melo è un giocatore in costante rischio di giallo, così come, anzi, Sissoko lo è anche di più. Quindi sono due giocatori che devono senz'altro disciplinarsi. In questa via di stagione Sissoko ha sempre una e Diego anche, quindi il disegno, onestamente, il disegno definitivo del centrocampo, che pure secondo me ha moltissime risorse, ancora non si vede. Lei parla di Zanetti, ma mi pare che Zanetti nelle ultime due stagioni si sia visto pochissimo. È giocatore molto forte, secondo me, giocatore completo, però è uno sempre alle prese con costanti problemi fisici. Io credo che al di là, ripeto, delle cifre, se è andato via Zanetti ci sarà qualche altro discorso o movimento che possa completare il quadro per la Juventus. Non parlerei di regale alla Fiorentina perché non mi sembra il caso, insomma. Moreno, provincia di Milano, buongiorno. Sì, dottor Genta, buongiorno. Purtroppo l'ascoltatore precedente mi ha bruciato parte dell'intervento, sì, perché io non sono critico su questa società, ma sono criticissimo, se si può dire, anche perché, a parte la cessione di Zanetti che è imbarazzante, l'acquisto di Cannavaro è imbarazzante al cubo, secondo me. Ma perché? Ma vedi, ma Cannavaro in campo, cioè cammina purtroppo. Lo vediamo, secondo me, guardi, ci sono storie che vanno all'indietro nel tempo, no? Di rapporti tra Cannavaro e i tifosi della Juventus. Secondo me non è stata invece un'idea così malvagia quella di far rientrare Fabio Cannavaro. È chiaro, non è certamente un investimento a lungo termine, non è certamente un investimento sul futuro, però è un giocatore che comunque può dare senz'altro una mano a compattare il pacchetto dietro e può dare una grande mano alla crescita di Ariaudio, che io penso sia il prossimo difensore centrale titolare della Juventus. Io lo leggo in questo senso, Prego. No, volevo solo dire un'ultima cosa. Noi, grazie ai soldi spesi per Cannavaro, abbiamo perso una persona, non dico un calciatore, una persona come Nedved. Che 3-2 secondo me, io le spiego, poi con Cannavaro sono molto prevenuto. Assolutamente. Questo l'avevo capito, ma non solo lei, tutti i tifosi della Juventus. Guardi, non so cosa rispondere, nel senso che io, tra Cannavaro e Nedved come giocatori, eccetera, mi prendo Cannavaro tutta la vita. Nedved, insomma, è uno che anche nell'epilogo non mi è piaciuto, anzi forse soprattutto nell'epilogo non mi è piaciuto. L'ennesimo addio al calcio, l'ennesima richiesta di contratto lungo, di 2 anni, vabbè. Quella manfrina mi ha personalmente infastidito, io non sono tifoso della Juventus, ma quella manfrina mi ha dato fastidio, non lo so, evidentemente ai tifosi della Juventus no. Quell'addio al calcio con richiesta di contratto, quindi con richiesta di rimanere in attività, peraltro non è nemmeno l'unica volta in cui c'è stato questo tiro e molla, non mi è piaciuta, quindi non saprei cosa aggiungere, ecco. Mi limito a guardare le cose dal punto di vista tecnico. Non si può dire era meglio tenere Nedved e non prendere Cannavaro, perché sono comunque sul campo giocatori profondamente differenti. Se parliamo di persone, lascio a voi ogni giudizio, insomma, ogni valutazione. E ogni valutazione vale, ha lo stesso diritto di cittadinanza. Paolo, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno. Senta, un'informazione da lei, eventualmente un'opinione sul Milan. Un'informazione, volevo sapere se lei ha a disposizione i numeri relativamente agli abbonati del Milan, perché io li ho cercati anche sul web, ma secondo me sono tenuti un po' nascosti. Non riesco a capire a quanto ammonti la campagna abbonamenti del Milan in questo momento. Sì, penso che siano numeri molto bassi, ci informeremo. Su due piedi non glieli so dire, ci informiamo, promesso. L'altro punto è questo: non riesco a capire, probabilmente è una mia mancanza, a cosa serva questa smobilitazione di Berlusconi nel Milan. Cioè, non credo che gli serva da un punto di vista mediatico, politico, elettorale, anzi credo che gli faccia solo del danno. Quindi non riesco a capire se non sotto sotto ci sia la volontà di cedere alla società, perché è stato smentito, è stato smentito più volte che Berlusconi aveva intenzione di cedere alla società, magari entreranno nuovi soci. Questo disimpegno che credo sia determinato da, come si è molto spesso detto e scritto, da ragioni familiari, di logica del gruppo Berlusconi. Ma io saluto e ringrazio Alberto Cerruti, che è la prima penna del calcio sulla Gazzetta. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Non saprei cosa 4. Ci sia sotto il disimpegno di Berlusconi nel Milan, se non quello che si dice di scrivere ormai da tempo. Ma no, la verità è molto semplice: Berlusconi vuole risanare il Milan dal punto di vista economico. La sua grande sfida è quella di continuare a vincere, perché lui vuole vincere, ma senza avere il bilancio in passivo. D'altra parte non è un mistero che prima che scoppiasse lo scandalo del 2006 Berlusconi avesse contattato Moggi e Giraudo, che invidiava per la loro capacità di mantenere la Juventus competitiva con i bilanci in pareggio o in attivo, sia pure di poco, per 5 anni consecutivi. I bilanci in pareggio, a scanso di battute, non hanno nulla a che vedere con le tessere per contattare gli arbitri. Sì, certo. Senti Alberto, questo programma è improntato sulla vittoria di Carletto, di cui ho fatto outing, mi sono dichiarato per sempre tifoso, e su Mourinho il bianco e il nero, no? Per Carletto primo titolo, per il cordiale nemico Mourinho un calice di rabbia, che ha sfogato anche, secondo me, anche con troppa violenza contro la Lazio. A proposito di Inter, tu vedi bene nel tratteggiare, ma anche graficamente sulla Gazzetta di oggi, una terra di nessuno tra centrocampo e attacco nell'Inter? Sì, purtroppo la realtà è quello che si vedeva, o meglio non si vedeva l'anno scorso, e che non si è visto nemmeno contro la Lazio, perché è vero che l'Inter ha giocato meglio della Lazio, che ha tirato di più, che avrebbe dovuto vincere. Però un conto è vincere e un conto è giocare bene ed essere una squadra completa. L'Inter l'anno scorso giocava in 12 perché aveva Ibrahimovic che faceva l'attaccante e anche il rifinitore, e quest'anno gioca in 11. Eto'o è uno straordinario giocatore, però non è abituato a rientrare come faceva Ibrahimovic, non può fare la partita che ha fatto l'altro giorno, se no tra un mese è già cotto. Nel sì. Barcellona c'erano Iniesta, Xavi che lo servivano, e lui segnava sempre dentro l'area piccola, non da fuori area come faceva Ibrahimovic, per cui l'Inter, se non risolve questo problema di collegamento fra i centrocampisti e gli attaccanti, potrà sempre vincere contro il Palermo, il Chievo, ma poi avrà difficoltà in Champions League. Sì, non si può chiedere a Eto'o di essere allo stesso tempo Eto'o e Iniesta in una persona sola. Due punte intelligenti applicate comunque, Milito ed Eto'o, due punte che devono essere innescate, creatività che manca, e si tratta di capire a questo punto le strategie e i soldi a disposizione. Ma Mourinho, come tutti gli allenatori, vuole giocatori nuovi. Moratti è un po' stanco di spendere dei soldi, quindi spera che si possa arrivare attraverso soluzioni interne. Noi sulla Gazzetta questa mattina abbiamo prospettato l'ipotesi di avanzare lo stesso Thiago Motta al centro dietro le punte. Non è un ruolo che ha ricoperto in passato, però si potrebbe tentare. Io ho una mia vecchia idea, che è quella di Cambiasso in quella posizione, sì, mettendo lo stesso Stankovic davanti alla difesa o Chivu. Però Mourinho non vuole rinunciare a Cambiasso dietro, è un po' la coperta corta, certo. Rinuncia così alle accelerazioni di Cambiasso, che è uno che oltretutto segna, che è partito da mezzala comunque all'inizio, sì, della carriera, che segna molti gol e quando avanza è sempre pericoloso, quindi secondo me utilizzare Cambiasso in quel ruolo significa frenarlo, anche se lui è bravissimo anche in quel ruolo. Berto, per chiudere una considerazione generale, all'Inter è sembrato evidente, ha fatto molto possesso palla, ma manca la capacità di cambiare ritmo. Trovo che sia abbastanza un male di stagione, vedo però come le italiane rispetto alle concorrenti straniere siano pericolosamente lente, imballate e con difficoltà fisiche. La Juventus che l'ha presa secca dal Villarreal, Diego e Sissoko che al momento ne hanno sempre una, il Milan che non sa più vincere neanche per sbaglio, nonostante la fiducia spesa da Pirlo, più che Unterer serviva il mago Merlino lì per cambiare il discorso. Però squadre italiane pericolosamente indietro di condizione, mi pare. Sì, ma io penso che siano indietro dal punto di vista tecnico, anche perché il problema poi della condizione scompare nel corso della stagione e rimangono i limiti tecnici. Quindi squadre italiane che di fronte a certi impegni non si impegnano, perché abbiamo sentito dire che l'Italia, la Confederation Cup, non si è impegnata perché non contava, e ci sono squadre quindi che nelle amichevoli non mettono tutto quello che invece gli stranieri mettono, quindi ci sono tante cause: condizione atletica, atteggiamento mentale e aspetto tecnico, ma io sottolineo l'aspetto tecnico che alla lunga è quello che fa la differenza. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero Alberto Ceruti. Andiamo a parlare con gli ascoltatori, prima Mario da Roma, vi ricordo 800240024, il numero verde, messaggi 349-238-6666. Cannavaro dà una mano alla difesa come venerdì sera, scrive in polemica Pietro da Novara. Mi sembra che venerdì sera più che una mano ne servivano 8 per la difesa juventina per fermare gli attaccanti del Villarreal, che l'hanno fatta a fette. Però ripeto, credo sia noto come le italiane siano tutte parecchio indietro di condizione, probabilmente hanno caricato molto sul lavoro, che la stagione sarà sarà lunghissima. Vedo gli altri nei confronti con le squadre straniere, gli altri decisamente più brillanti. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo dire, per quanto riguarda l'arbitro della partita del Chelsea di ieri, che ha lasciato correre il fallo di Ballack sul coso, perché la palla è andata a un altro del Manchester. Sì, a Rooney che è stato il primo a provare a ripartire. Sì. Ha mandato la palla un po' in avanti cercando di fare l'azione e hanno ripreso la palla al Chelsea. Poi quando si sono accorti che erano meno hanno rallentato. Sì, sì, sì, sì, infatti sì. Sky ha fatto vedere che cioè, l'arbitro aveva ragione, cioè non per quello. Poi ha fatto vedere un'altra cosa a Sky, l'abbraccio di Ancelotti con un signore sì. che è il psicologo del Milan sì. che l'ha portato al Chelsea, cioè no, a prescindere va bene, qualcuno se l'è portato. Sì, qualcuno se l'è portato, come d'uso ormai fra tutti gli allenatori. A proposito di allenatori, sta parlando Marcello Lippi a Coverciano, proviamo a sentire una battuta. Può giocare con quell'altro, può essere tutto, l'importante è costruire un gruppo di persone che hanno la voglia di mettersi completamente a disposizione della squadra con tutte le loro qualità. Non è una questione di modulo, è una questione di mentalità, e poi possono giocare vicino in un'occasione giocatori che hanno magari caratteristiche abbastanza simili, per esempio come D'Agostino a Pirlo, oppure possiamo fare in alcune occasioni giocatori che hanno caratteristiche magari più di oltre che di costruzione anche di distruzione del gioco. Si può fare tante cose, l'importante è che ci sia un denominatore comune, che è quello di comportarsi e di muoversi in maniera compatta, unita, con la stessa voglia di partecipare, con la stessa intraprendenza, con la stessa disponibilità quando abbiamo la palla, e la stessa disponibilità, la stessa voglia di partecipare, di essere utile alla squadra quando la palla la perdiamo e ce l'hanno gli altri. Questo è la, che poi sia un 4-2-3-1, un 4-4-1-1, un 4-3-1-2, hanno tutti la stessa matrice questi moduli, che è quella del 4-4-2, se ci pensate bene. Ma l'importante è che quando si perde la palla non rimangano due o tre giocatori là davanti a guardare, ecco, questa è la cosa importante. Sì, mi sembra. Queste dichiarazioni che arrivano in diretta da Coverciano, dichiarazioni di intenti di Marcello Lippi, poi proveremo a sentire qualche altra battuta del CT che sta parlando. Intanto sento le battute dei nostri ascoltatori. Franco, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a lei, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo così dire due cose a proposito di allenatori. La prima è una curiosità. Si sente sempre sui giornali, ormai è sempre un solito refrain. Adesso c'è da aspettarsi che tutto l'anno, se l'Inter perde una partita, sentire sempre zero titoli e l'altro che vince è sempre uno titoli. Cioè, ricordiamoci che l'anno scorso Mourinho ha fatto queste affermazioni che sono sembrate ai più arroganti. Però è stata una frase estrapolata da un contesto che sì. C'è stato un periodo che l'Inter era un po' in difficoltà e lui ha voluto far rimarcare che le difficoltà dell'Inter erano solo in quel. No, ma non bisogna prenderla letteralmente né sul serio. È innescato questo tormentone Mourinho, che è uno straordinario comunicatore. A quest'anno all'Inter servirà il Mourinho straordinario comunicatore, il Mourinho straordinario gestore di risorse umane. Servirà però anche un po' più Mourinho allenatore sul campo, perché si tratta di una squadra molto curiosa, l'ho detto mille volte su quest'Inter, si tratta di una squadra da nuova, completamente nuova come atteggiamento, come modo di giocare. Sarà la prima vera Inter di Mourinho, quindi c'è grande curiosità intorno a tutto questo, insomma. Detto ciò, quello zero titoli abusato, se volete, anzi certamente abusato, è soltanto un refreno, un tormentone, non c'è alcun accenno polemico in tutto questo. Anzi, io mi auguro che Mourinho, anzi sono certo che Mourinho saprà regalarci altri argomenti di discussione, altri ritornelli, perché ripeto, non ho nessuna antipatia nei confronti di Mourinho, che trovo uno straordinario comunicatore, meno male che c'è, perché vedete come ci dà da discutere. Mi diverte invece leggere la rassegna stampa cinese su Mourinho. c'è, la trovate ad esempio oggi sul Corriere della Sera, la fortuna di Mu è volata via come un uccello dal nido, sentenzia quasi in poesia il commentatore sportivo Dong Lu, giocando sul fatto che in Cina il nome di Mourinho è scritto Mo Li Niao, uccello magico, oppure Oriental Sport Daily, che sottolinea l'irrequietezza dell'allenatore interista. Quando è andato a farsi un giro al mercato della seta, appena si è accorto che l'autista del pullman era in ritardo, avrebbe voluto guidarlo lui. Oppure il Beijing News, che si diverte a raccontare che lo speciale si è comportato in modo speciale, ovvero criticando la Lazio, ma anche sostenendo che in Cina il calcio stenta per colpa dei giornalisti. Poi c'è la storia dell'udienza richiesta dal CT della nazionale cinese e non concessa da Mourinho, anche se mi sembra che lo stesso Mourinho dica che non è vero. Leggo un'agenzia di qualche minuto fa che smentisce questa. L'allenatore della nazionale cinese ha seguito il lavoro dei nerazzurri in occasione dell'allenamento del 5 agosto intrattenendosi con l'allenatore portoghese alcuni minuti. Mourinho e il CT della nazionale cinese dunque si erano infatti dati appuntamento il giorno seguente per la rifinitura nerazzurra, ma a causa di forza maggiore e numerosi problemi logistici che hanno caratterizzato la preparazione del lavoro in campo hanno impedito che la realizzazione dell'incontro avvenisse. Dunque così stanno le cose. Ancora una battuta di Lippi, chissà cosa sta dicendo. Dobbiamo prima di tutto preoccuparci di qualificarci, perché noi abbiamo fatto abbastanza bene, perché non abbiamo mai perso, abbiamo fatto due pareggi e il resto solo vittorie, però nel frattempo ci sono state altre squadre che si sono comportate molto bene. E comunque però sta tutto nelle nostre mani, no? A settembre abbiamo la possibilità di prendere una posizione di assoluto privilegio e cercheremo di farlo. Una volta risolto il problema della qualificazione, poi dopo ci saranno quei 4-5 mesi nei quali dovremo... L'obiettivo, come ho sempre detto, è quello di fare una squadra che abbia le caratteristiche che ho detto prima, e per squadra intendo una trentina di giocatori che si sentano parte integrante di questa squadra, con le caratteristiche tecniche e psicologiche che abbiamo detto, che conosciamo molto bene, e poi da questi 30-35 giocatori ci usciranno i 23 che andranno, una volta conquistata la qualificazione, andranno al mondiale. E così Marcello Lippi. Davide Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io diciamo che un po' avete anticipato e bruciato il mio intervento parlando di Inter-Lazio, e concordo pienamente sulle vostre osservazioni. Io volevo completare la cosa, anche per non essere ripetitivo, premettendo che non sono né interista né ho comunque una particolare accredine nei confronti dei nerazzurri, e dicendo che comunque l'atteggiamento di Mourinho ogni volta che perde è veramente antipatico. Io ieri sera alla Domenica Sportiva ho ascoltato una cosa che mi ha fatto veramente sorridere, ma di quei sorrisi un po' amari, sì. Sentendo uno dei tanti giornalisti che spesso si erge a professore della scienza esatta, secondo loro, del calcio, dire che, cito testualmente, è una convinzione stupida, tra l'altro prettamente italiana, quella di inseguire il buon calcio, ma bisogna inseguire solo il risultato. Io vorrei dire che senza Ibrahimovic l'Inter, se quest'anno non riesce ad avere un gioco, i zero titoli di Mourinho se lo doveva ripetere a se stesso, secondo me. Volevo sentire cosa ne pensate. Ma insomma, io credo che lo spettacolo fine a se stesso, non, soprattutto dalle nostre parti, non interessi a nessuno. Credo che il calcio oggi sia non solo bellezza estetica, sia anche organizzazione, sia anche preparazione, sia anche cura dei dettagli. Però, come scrive ad esempio Mario Sconcerti sul Corriere della Sera di oggi, il calcio è anche un disegno globale. Mourinho, molto bravo nella cura dei dettagli, qualche volta è stato portato, soprattutto l'anno scorso, a trascurare il disegno globale, cosa che quest'anno non potrà più fare, perché ha una squadra da costruire, da inventarsi anche tatticamente. Ripeto, una squadra che ha due grandi attaccanti molto applicati, molto intelligenti, che però vanno riforniti di munizioni. Quindi, mentre l'anno scorso c'era il grande inventore, no? C'era il grande artista là davanti, che poteva anche in alcuni casi diventare anche una sorta di alibi per tutti quanti. Tiri la palla là, c'è Ibra, qualcosa inventa, qualcosa riesce a combinare, riesce a fare l'assist, riesce a girarsi a tirare, riesce a costruirsi qualche volta un gol da solo. Quest'anno sarà una squadra che invece dovrà giocare per rifornire due grandi finalizzatori. Ripeto, molto, anche con molto compatibili secondo me dal punto di vista calcistico, due giocatori molto applicati, molto partecipi, che però richiedono un gioco di natura differente. Non credo che il calcio sia soltanto estetica, credo che sia estetica abbinata al calcio di oggi, ad organizzazione, a risultati e tutto quanto. Difficile dire giocare bene oppure vincere, non è un'alternativa praticabile. Adesso andiamo in provincia di Latina, Lidano, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io prima di tutto vorrei schierarmi a favore di coloro che sono contro la parola proprio titoli, perché è un po' stufato, insomma, la usano tutti, forse, anzi sicuramente molto a sproposito. E poi volevo parlare, tornare un pochino sul discorso della Juventus, perché insomma la notizia di questa mattina della cessione di Zanetti mi ha fatto un po' paura, perché visto che non si parla di probabili sostituti e che numericamente là in mezzo, tolti quelli che abbiamo già citato, vale a dire Sissoko, Camoranesi, Marchisio e Melo, poi ci rimangono quegli altri due che nessuno vuole e che però purtroppo ci abbiamo, che sono Thiago e Poulsen, per cui probabilmente a questo punto la società e lo stesso Ferrara pensano di affidarsi a questi due giocatori, ripeto, purtroppo. Sì, io credo che comunque il ruolo sia ampiamente coperto, eh. Cioè, al di là della cessione della partenza di Cristiano Zanetti, che ripeto, nelle ultime due stagioni non si è visto quasi mai, era sempre in infermeria, comunque giocatore straordinario secondo me, ma estremamente delicato nelle ultime stagioni, ha avuto sempre diversi problemi fisici e non mi sembra sia riuscito, soprattutto l'anno scorso, tant'è vero che poi è stato preso Sissoko, a dare una grande mano in mezzo alla Juventus. Sempre in infermeria, adesso la Juventus se ne è privata, improvvisamente diventa il giocatore insostituibile. Secondo me non è così. Secondo me si tratta di capire esattamente quando, per quanto ne avrà Sissoko. Si parla di un mese, però qui i tempi continuano ad allungarsi e quello è indubbiamente il titolare nella mediana bianconera. Ci sono quegli altri due che insomma ce li hai lì, li strapaghi, hai fatto degli errori, su questo nessuno discute, però Poulsen e Thiago in questo momento è difficile venderli, dunque in qualche modo si dovrà impiegarli. La soluzione più realistica è quella di riserve dei titolari, che saranno Sissoko, saranno Marchisio, saranno Melo, e poi quando c'è bisogno subentrano questi. Non mi sembra insomma che la partenza di Zanetti, ripeto, eccellente giocatore, ma vada così enfatizzata. Non escluderei nemmeno che la Juventus stia progettando, a fronte della cessione di Zanetti, di far arrivare qualche altro giocatore. Ad esempio, se arrivasse qualche giocatore sugli esterni, credo che l'affare sarebbe, dal punto di vista tattico, ampiamente condivisibile. Le conferenze stampa di Marcello Lippi sono sempre qualcosa di articolato e complesso. Sta parlando ancora. Ragazzi, che fantasia che ci avete. Vabbè, te stai dicendo, hai ragione, dai. Cassano. Te sei, hai ragione a farmi questa domanda. Interessa molto, no, l'impressione, sentiamolo. Quando parlo di... Non mi metto a fare delle valutazioni sui singoli, non mi metto perché non voglio... dare ulteriori motivazioni di fare, di scrivere, di cosare. Ho detto delle cose, io convoco i giocatori, certamente che i giocatori li convoco su basi tecniche e psicologiche, certamente. Okay. E vale per tutti i giocatori questo. Dono? Che effetto del fatto, Marcello, la vittoria della Lazio con il Covid, la vittoria di Ancelotti, ascoltare un po' il discorso della nazionale, certo cominciamo dal campionato, dal resto. L'affetto della Lazio è uno spot molto bello per il calcio, no? Perché sia pure con un po' di fortuna, però ha vinto una squadra che certamente in questo momento sta avendo dei problemi con alcuni giocatori importanti, che addirittura sono fuori rosa, e va a fare una partita così importante contro una squadra che si è rinforzata moltissimo con grandi giocatori e vince. E questo è testimonianza, no, motivazione ce l'aveva anche l'Inter, è una testimonianza che non c'è niente di impossibile quando una squadra ha una buona organizzazione, perché si è parlato della Lazio soltanto di voglia, determinazione e di fame, c'era anche un'ottima organizzazione difensiva nella Lazio in quella partita, ha saputo difendere con tutta la squadra, ha avuto una giornata super del proprio portiere. E come in passato è successo miliardi di volte e succederà ancora in futuro, ha vinto una squadra che aveva potenzialità inferiori, ma questa è una cosa bella per il calcio, deve far ben sperare, deve far credere a chiunque abbia queste caratteristiche di squadra di poter ambire a qualsiasi risultato. Questo ha detto Inter-Lazio. È bello vedere Ancelotti che vince il primo trofeo importante in Inghilterra. È bello perché soffre, il primo tempo è stato di assoluto dominio del Manchester, poi dopo invece, dopo il pari, è venuta fuori l'organizzazione, la voglia e del Chelsea, che ha meritato poi dopo questo risultato. Questo Marcello Lippi che ha detto cose che credo interesseranno a molti. A partire da Cassano, convoca i giocatori sulla base di considerazioni tecniche e psicologiche. Ma io credo che al di là di tutto Marcello Lippi abbia i titoli e la possibilità, forse anche il dovere, di convocare i giocatori che ritiene opportuni. Cassano è un giocatore, al di là del talento, molto ingombrante, molto pesante, che innesca continui tormentoni mediatici. Io credo che abbia tutti i diritti Marcello Lippi di non chiamarlo. Io lo chiamerei, poi insomma vediamo. Non è semplicemente un giocatore di calcio che viene inserito in un gruppo che già esiste, è comunque un giocatore che si porta dietro un circo mediatico piuttosto ingombrante. Ha parlato anche di Totti Lippi e ha detto: ha preso la decisione di lasciare la nazionale e io non ho intenzione di tornare indietro su questa decisione. Totti è stato un giocatore straordinario, ma appunto ha preso la sua decisione e io non ci tornerò su. Benissimo, questo mi sembra ampiamente condivisibile. Walter da Trento, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io telefono invece per parlare del Milan, perché sento ultimamente tanti che sono preoccupati, a parte le preoccupazioni dovrebbero essere altre cose, che il calcio sì. Condivido. Ma comunque diciamo preoccupati calcisticamente, certo. Ma voi lo vedete così brutto sto Milan? Cioè, io questa cosa qua non la vedo così male, almeno la difesa è migliorata molto rispetto all'anno scorso, secondo me. Sì, si tratta di capire. No, Walter, è una domanda. No, ma si tratta di capire qual è il valore assoluto e dove si vuole arrivare. Perché in valore assoluto il Milan è una buona squadra, però è una squadra che se ambisce a scudetto e Champions League mi sembra un po' lontana. No, beh, magari per ambire così tanto. No, ma l'equivoco neanche... è questo. L'equivoco è questo. È chiaro che il Milan si salva. È chiaro anche che in linea di massima arriverà in Europa. Giocherà la Champions League e magari passa anche il primo turno. Però rispetto alle ambizioni dichiarate e alle ambizioni degli ultimi vent'anni, mi sembra una squadra non attrezzata per vincere lo scudetto e per vincere la Champions League. Questa è la mia idea. Ma... non è che è questione di dire così male, no, è comunque una delle squadre più forti del nostro campionato. È senz'altro la seconda più costosa del nostro campionato dopo l'Inter, se parliamo di monte ingaggi. Prego. Posso chiedere un'altra cosa? Se prego. Mi ha sollecitato prima l'intervento di un ascoltatore sull'Inter. Io la partita l'ho vista l'altro giorno Lazio-Inter. Sì. Mi è sembrato di rivedere tante partite che il Milan ha fatto l'anno scorso. Sì. Dove attaccava molto ma riusciva a concludere poco, o anzi o sbagliava molto soprattutto. Sì. Anche perché considerando che la Lazio non ha una difesa di fenomeni. No, sono d'accordo, grande possesso palla e pare difficoltà nel costruire qualcosa di valido per gli attaccanti. E ripeto, Milito e Eto'o, che sono stati chiaramente i migliori dell'Inter, al di là dello splendido gol segnato da Eto'o, anche come idea, come costruzione del gioco, come qualità, sono stati i migliori dell'Inter, però bisogna innescarli. L'Inter ha fatto un sacco di possesso palla, non ha ancora nelle gambe il cambio di ritmo come la maggior parte delle nostre squadre, quindi gioca sotto ritmo sempre e fa fatica nel raccordo tra centrocampo e attacco. Può essere che sia una difficoltà contingente dovuta al momento della stagione, al fatto che comunque c'è qualcosa di molto diverso rispetto al passato. Può darsi che sia una carenza strutturale, per cui potrebbe servire, come da molti richiesto, un giocatore in grado di fare questo tipo di raccordo. Poi le soluzioni possono essere più stravaganti e fantasiose e originali, da Cassano a Ribéry, che credo siano due giocatori che non arriveranno all'Inter in questa stagione, a trequartisti di minore lignaggio, Aimar, Diego e così via, oppure soluzioni interne. Prima quella prospettata da Alberto Ceruti mi sembrava piuttosto interessante, con Cambiasso che insomma, che è buono per tutte le stagioni, ha giocato centrale difensivo è un mostruoso, mostruoso interprete della mediana, è partito all'inizio della carriera come mezzala, chissà che non possa andare a giocare anche in quella posizione. Adesso però vorrei, prima di chiudere, cambiare argomento, perché dalla notte ci è arrivata la notizia che volevamo sapere, da Los Angeles ci è arrivata, cioè la vittoria di Flavia Pennetta nel torneo di Los Angeles, un torneo in cui Flavia ha costruito, ho l'impressione, una piramide d'oro che l'ha portata fino alle soglie della top 10, e per il nostro tennis, che spesso somiglia un po' a un deserto, è una notizia incredibile. Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo. Ciao. Senti, Flavia mostruosa, perché ha messo una in fila all'altra in questo torneo alcune delle giocatrici più forti del mondo, come ben sai. Sì, e poi fra l'altro questo, insomma, come dotazione è il torneo più grande mai vinto da una giocatrice azzurra, cioè mai sì. Nessuno aveva vinto un torneo così importante. È un torneo poi molto ben frequentato, perché a parte le avversarie dirette, quelle che ha battuto lei, cioè due top ten e addirittura un ex numero uno del mondo, Sharapova, c'erano sei delle prime 11 del mondo, quindi non era un torneo mal frequentato, e fra l'altro si giocava sul cemento, che è una superficie, diciamo, che non è stata sempre amica delle italiane, noi nasciamo sulla terra rossa. Quindi ottima prestazione, fra l'altro un sintomo di una crescita costante di questa giocatrice, che negli anni, pian pianino, da quando ha deciso di andare a vivere in Spagna, a farsi delle basi, mettersi delle basi certe, è migliorata moltissimo come giocatrice. È una giocatrice che giocava quasi esclusivamente in forcing e soprattutto picchiava di rovescio. Sì. Adesso è una giocatrice completa, che tiene da fondo, gioca bene di dritto e serve molto bene, quindi è una giocatrice in crescita, a 27 anni può esprimersi ancora ad altissimo livello, e sta facendo già meglio anche di una Farina, che in effetti fino all'altro ieri era la più forte, sicuramente la più forte, la più completa giocatrice italiana, che però ha cominciato a vincere più tardi. Fra l'altro la Pennetta ha vinto l'ottavo titolo, quindi è vicina, diciamo, già ai paragoni con le più grandi italiane di sempre. La Cecchini ne ha vinti 11, la Farina di cui parlavamo appena 3, quindi insomma stiamo parlando già di un, possiamo già affrontare l'argomento se è la più forte italiana di sempre. Sì, come mi sembra di tornare ai giorni di Federica Pellegrini, no? La più grande sportiva italiana di sempre. Ovviamente la Pennetta non credo possa rientrare in questa classifica, però 27 anni non trovi siano... Insomma, ci auguriamo tutti che adesso vada tra le prime 10 e che ci resti per 10 anni, però visti lo standard attuale, la durata attuale della carriera delle grandi campionesse, non trovi che sia un po' in là con gli anni? Sei arrivato un po' tardi forse? Ma sicuramente, soprattutto nel tennis, poi i nostri giocatori sono arrivati tutti tardissimo, anche Panatta è arrivato a 26 anni. Il problema vero, secondo me, è che in Italia, al di là di tutti i grandi risultati sbandierati dalla federazione, in realtà noi non abbiamo un sistema, ed è per Bravissimo. Questo motivo che i nostri migliori giocatori poi vanno a giocare all'estero. Cioè se una giocatrice come i nostri migliori giocatori obiettivamente negli ultimi anni sono stati Gaudenzi e la Pennetta, tutti e due allevati all'estero, e bisognerebbe chiedersi perché. Cioè noi non abbiamo ancora affrontato il vero grande problema, che è quello del passaggio da junior a professionista. Certo. Cioè in quel momento lì l'atleta non viene aiutato, noi abbiamo perso dei grandissimi talenti, qualcuno sorride quando io lo dico, ma io ci metto tranquillamente tutta la mia credibilità dicendo che secondo me giocatori come Navarra, come Bracciali, valevano tranquillamente, lo dico e lo ripeto, giocatori fra i primi 10 del mondo, sicuramente più forti di un Davidenko, però dovevano avere delle basi che la Pennetta si sta dando proprio all'estero, cioè una concretezza di gioco alla quale puoi aggiungere queste altre cose. E sicuramente ha perso un paio d'anni la nostra giocatrice, la Pennetta, così come la Farina ne ha persi ancora di più, però se andiamo a vedere poi la storia, anche la Schiavone ha cambiato idea e indirizzo tecnico 3 volte completamente, sì, dagli argentini agli spagnoli e viceversa. Cioè tutto questo dovrebbe far riflettere un sistema e dire, ma vogliamo darci un'organizzazione sicura? Perché i talenti ci sono, manca proprio questa organizzazione, ed è un vero peccato come dici tu, perché alla fine vedi i giocatori poi quando mettono insieme un po' di concretezza siamo competitivi, anche perché il tennis attuale obiettivamente, fra virgolette, tolti i primi 3-5 5 posti è buono per tutti. Sì, è presente che la nostra pianeta è arrivata a 100 punti dal numero 10 del mondo, quindi è lì. Sì. No, ma infatti, ma io credo che il nocciolo del problema sia proprio quello che hai appena tratteggiato. Cioè, non hai mai l'impressione, quando abbiamo un grande risultato come questo, non hai mai l'impressione che sia un punto di partenza. Hai sempre l'impressione che sia un po' un fiore nato nel deserto organizzativo e strutturale del nostro tennis. Grazie Vincenzo, buon lavoro. Arrivederci a voi. Grazie davvero Vincenzo Martucci. Così chiudiamo la nostra trasmissione. Naturalmente saremo insieme anche domani dalle 14 alle 15. Io ringrazio Laura Vanossi per il lavoro in redazione, ringrazio Filippo Aureggio in regia. Vi ricordo domani pomeriggio alle 14 con un tempo di sport. Buona giornata a tutti.